Focus Economia. Le 17, 8 minuti, 22 secondi. Buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È una giornata abbastanza tranquilla sui mercati, gli indici almeno a Milano sono lievemente in positivo in una giornata che non ha le indicazioni da Wall Street e Londra, chiuse entrambe per il Memorial Day. Naturalmente parleremo in questa puntata della relazione annuale del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, nella quale, come tradizione, si toccano tutti i punti dell'economia. In particolare si è soffermato il governatore della Banca d'Italia anche sulla manovra, sul tema della correzione dei conti pubblici, sul tema della crescita italiana, naturalmente sul tema dell'occupazione e della disoccupazione, ma anche sulla crisi globale, sull'atteggiamento dei mercati in questo periodo. Ma dedicheremo in questa puntata di Focus Economia, così come sempre nel corso di questa settimana, ampio spazio alla Cina. Come sapete, in questa settimana una parte di Focus Economia andrà in onda proprio dalla Cina, ci collegheremo con l'inviato, che è poi il titolare della trasmissione, Sebastiano Barisoni. 349-238-6666 per i vostri SMS, le notizie in breve di questa giornata. Iniziamo dal petrolio, anche oggi il rialzo dell'1% a $74,68 al barile. Questa l'apertura sui mercati asiatici. Naturalmente non c'è l'apertura a New York, perché a New York il mercato è chiuso. A proposito di Cina e di economie emergenti, è possibile una nuova recessione mondiale? L'avvertimento è del premier cinese Wen Jiabao, che è intervenuto oggi ad un convegno di uomini d'affari a Tokyo. Secondo Wen Jiabao l'economia globale appunto resta vulnerabile e i leader mondiali devono rimanere in allerta e non ritirare prematuramente le misure di stimolo. Tra l'altro Wen Jiabao ha fatto esplicitamente riferimento ai problemi di bilancio emersi in Europa. Altra economia emergente, quella indiana, che ormai forse più emergente non è emersa, ritorna a correre nel 2010. Il prodotto interno lordo ha registrato una crescita dell'8,6% nei primi tre mesi e del 7,4% nell'anno fiscale terminato lo scorso 31 marzo. Il dato, tra l'altro, è superiore alle attese. Naturalmente a trainare il tutto è stata la produzione industriale, che ha segnato un incremento del 10,8%. I dati dell'OCSE: nel primo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è cresciuto nell'area dell'OCSE appunto dello 0,7% rispetto al trimestre precedente. Torna a crescere il PIL dell'Italia, che nei primi tre mesi del 2010, come già evidenziato dall'Istat, ha messo a segno un più 0,5% dopo la debole contrazione dello 0,1% nel quarto trimestre 2009. L'andamento del PIL italiano è comunque superiore alla media europea, più 0,2%, appunto la media dell'Europa. Ci sono anche dati sull'inflazione, sono quelli che arrivano da Eurostat. Nella zona euro l'indice dei prezzi al consumo è salito nel mese di maggio all'1,6% dall'1,5% di aprile. Rallenta invece in Italia, secondo l'Istat, questa è la stima preliminare, è diminuita all'1,4% anno dall'1,5% registrato in aprile. Su base mensile i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,1%. L'inflazione di fondo, quella calcolata al netto dei prodotti energetici e degli alimenti non lavorati a maggio, su base annua si è attestata ad un più 1,2%. Altra notizia di oggi che riguarda l'Italia: la firma da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano del decreto legge che contiene la manovra economica. Le misure previste entreranno in vigore appena il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. A quanto si apprende è stata stralciata la lista dei 232 enti, fondazioni e istituti culturali da tagliare. Ci sarebbe una riduzione delle spese per il settore, affidata però alla valutazione del Ministro dei Beni Culturali, Sandro Bondi, che come sapete nei giorni scorsi aveva lamentato di non essere stato consultato. E veniamo all'assemblea annuale della Banca d'Italia con la lettura delle considerazioni finali da parte del governatore Mario Draghi, un tema che approfondiremo nella seconda parte della trasmissione. Ha detto Draghi che sostanzialmente la manovra fatta dal governo era inevitabile, vanno bene i tagli alla spesa ma devono essere un'occasione per ripensare il perimetro e l'articolazione dello Stato. Draghi ha fornito anche altri dati interessanti. Ha detto che sono stati evasi 30 miliardi all'anno sull'IVA negli ultimi 4 anni, un freno alla crescita dell'Italia. In questo caso, se l'IVA fosse stata pagata, il nostro debito sarebbe tra i più bassi dell'Europa. Ha parlato quindi di lotta all'evasione, chiedendo che la lotta all'evasione sia direttamente collegata alla riduzione delle tasse. Evasione ma anche corruzione diffusa, favorita dalle mafie, dice il governatore della Banca d'Italia. E poi ha parlato anche di riforma del lavoro e delle pensioni. La riforma del lavoro è da completare, il disagio riguarda soprattutto i giovani. E sulle pensioni bisogna aumentare l'età pensionabile e anche qua completare la riforma. E poi c'è stata anche una nota di ottimismo nel finale di questa relazione annuale del governatore. La crisi del 92 fu peggiore di quella di oggi, ma l'Italia vinse. La sfida italiana è coniugare rigore dei conti e crescita. Ascoltiamo Draghi. Nel 92 affrontammo una crisi di bilancio ben più seria di quella che hanno oggi davanti alcuni paesi europei. Il governo dell'epoca presentò un piano di rientro che, condiviso dal Paese, sia pure in modo travagliato, fu creduto dai mercati senza alcun aiuto da istituzioni internazionali o da altri Paesi. Fu una lotta lunga, in regime di cambi flessibili. Dopo 3 anni gli spread superavano ancora i 650 punti base, ma fu vinta perché i governi che seguirono mantennero la disciplina di bilancio. La stabilità era entrata nella cultura del Paese. Anche la sfida di oggi, coniugare la disciplina di bilancio con il ritorno alla crescita, si combatte facendo appello agli stessi valori che ci hanno permesso insieme di vincere le sfide del passato. Capacità di fare, equità, desiderio di sapere, solidarietà. Consapevoli delle debolezze da superare, delle forze ragguardevoli che abbiamo, affrontiamola. E queste le parole con le quali ha concluso Mario Draghi. Naturalmente si è rivolto anche alle banche chiedendo che proseguano il rafforzamento patrimoniale. Ha lanciato un messaggio, no, al ritorno del dominio della politica nelle fondazioni, più poteri per la rimozione dei vertici nelle banche a rischio. Ci sono anche le reazioni, naturalmente, a partire da quella del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Dice che il Paese ha le forze per vincere la sfida. E dall'inizio della legislatura, dice Berlusconi, che il governo ha fatto proprio la sfida lanciata dal governatore appunto per coniugare risanamento dei conti e crescita. E ancora, dice Berlusconi, è stata riconosciuta da Draghi la bontà dell'azione del governo. E ancora, la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, dice: siamo sulla stessa linea, ha condiviso le stesse cose che abbiamo detto noi. E veniamo al primo tema di questa giornata, ossia il Made in Italy e la Cina. Ha preso il via ieri per terminare il 4 giugno la terza missione imprenditoriale italiana in Cina, dopo quella del 2004 e del 2006, organizzata da ICE, Confindustria e ABI. Presenti 230 aziende, 600 imprenditori, 9 gruppi bancari, 18 associazioni industriali appartenenti a tutti i settori del Made in Italy. E allora ci colleghiamo con la Cina, con Sebastiano Barisoni, che sta seguendo questa terza missione nel paese. Buonasera Sebastiano, a te la linea. Sì Simone, grazie. Appunto, dopo 3 anni dall'ultima visita che Focus Economia ha fatto in Cina, siamo tornati a seguire le imprese italiane che sono presenti in questa missione, che è iniziata oggi toccando prima dei distretti di Chongqing, poi Shanghai, Pechino, e che avrà il suo momento topico proprio qui a Shanghai, quando assieme alla delegazione composta dai politici italiani vi saranno anche le autorità cinesi, la presidente di Confindustria Marcegaglia, molti banchieri tra cui Corrado Passera di Banca Intesa, per la festa della Repubblica il 2 giugno, che si terrà al padiglione italiano all'Expo di Shanghai. Ma dicevamo, la Cina 3-4 anni dopo rispetto alla nostra ultima visita, chi si ricorda gli approfondimenti e le inchieste che facemmo a suo tempo, ricorda anche che parlavamo di tre fasi almeno nella presenza italiana in Cina. La prima fase, quando si venne sostanzialmente a cercare di vendere i prodotti italiani in Cina, prodotti della meccanica industriale soprattutto; la seconda fase, quando gli italiani sbarcarono e cercarono soprattutto alleanze di carattere joint venture, di partecipazione con partner cinesi, non sempre riuscite, anzi in molti casi diedero problemi di carattere legale e in generale di carattere manageriale; e una terza fase in cui gli italiani più recentemente sono arrivati per produrre in Cina, con però una proprietà al 100% italiana, produrre in Cina per il mercato italiano ma anche per il mercato locale. Vedremo e cercheremo di capire in questi giorni se si stia andando di fronte o verso una quarta fase del rapporto tra imprese italiane, tra economia italiana e economia cinese. Io ricordo che in Cina sono presenti circa 2.000 imprese italiane, principalmente hanno la sede a Shanghai o a Pechino. La destinazione degli investimenti riguarda l'auto, la meccanica, la chimica e il tessile. Importante anche la presenza delle banche italiane, ci sono 15 dei principali istituti bancari in questo paese, con 10 sedi operative, 24 uffici di rappresentanza. Su 71 banche straniere in Cina, 15 sono italiane, e hanno complessivamente un plafond di 4 miliardi e mezzo di euro per le imprese che volessero investire in Cina, di cui è stata utilizzata solo una parte marginale, è ancora disponibile circa il 60%. Comunque, questa scheda, come sempre, ricorda lo stato dell'arte dei rapporti economici tra Italia e Cina. La grande fabbrica del mondo si appresta a diventare anche il suo più grande mercato. Con un'economia cresciuta in media del 10% negli ultimi 10 anni e 300 milioni di persone che ingrossano la nuova classe media più in espansione del pianeta, la Cina è proiettata a diventare il primo esportatore, il primo importatore e il primo consumatore al mondo. Un boom che spiega la corsa sempre più combattuta verso Oriente, in cui l'Italia sta giocando la sua parte. Le imprese tricolore in Cina sono oltre 2.000 e gli impianti produttivi 600. Quarta in Europa per interscambio, dietro Germania, Francia e Olanda, l'Italia nel 2000 non figurava nemmeno tra i primi 20 investitori nell'ex celeste impero. Oggi siamo ottavi tra gli occidentali. E che la Cina non sia più vista solo come minaccia, ma anche come grande opportunità, lo dimostrano i dati sull'interscambio commerciale. Nel 2003 il giro d'affari tra Italia e Cina era di 12 miliardi di dollari. Nel 2008 ha toccato il record di 38 miliardi e l'anno dopo, nonostante la crisi, 31,2 miliardi. Siamo il 24esimo esportatore con oltre 11 miliardi di dollari e abbiamo importato per oltre 20 miliardi. Nonostante il saldo negativo, la Cina è stata però l'unica nazione in cui le nostre esportazioni sono aumentate l'anno scorso, più 3,2%. Una tendenza confermata anche dal più 17,8% dello scorso aprile. Un dinamismo che contraddistingue anche le nostre imprese. Le prime delocalizzazioni stagionali hanno ceduto il passo a una produzione stabile in Cina. Ad aprire la strada, i marchi dell'alimentare, dell'industria meccanica, elettrica e farmaceutica, dell'abbigliamento e calzature, lusso e gioielleria, arredo per la casa e auto. Un particolare però rivela i limiti che minano ancora la corsa italiana. L'80% dei nostri investimenti in Cina è fatto da imprese di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, pressoché assente il resto della nazione. E allora iniziamo a parlare con i protagonisti. Li abbiamo scelti volutamente non appartenenti a grandi gruppi industriali, ma persone che hanno esperienza da lunghi anni in Cina o che per altri versi sono sbarcati da poco con un nuovo approccio rispetto a quello che è il mondo economico cinese. Giovanni Ogera, manager responsabile della pubblica relazione di un'azienda cinese che tra l'altro ha un rapporto diretto con l'Italia perché ha acquisito Sergio Tacchini, marchio Sergio Tacchini. Ma la cosa che più ci interessa è che lei è in Cina da quanti anni esattamente? Sono 17 anni che sono in Cina. Prima come direttore responsabile dell'allora banca di Roma, e quindi conosce molto bene quello che è stata l'evoluzione della presenza italiana in Cina. di nuovo le tre fasi iniziali, la prima fase vera e propria quando gli italiani venivano per comprare sostanzialmente macchinari, apparecchiature e anche tessile e abbigliamento a basso costo, poi la fase in cui si è cercata una presenza nel territorio cinese attraverso le joint venture che non sempre hanno funzionato in questo paese, nei rapporti col partner cinese, la terza fase è quella in cui le aziende italiane sono venute anche per produrre per il mercato cinese. Allora vorrei capire se lei come esperienza biografica rappresenta un'evoluzione, una quarta fase, cioè le aziende cinesi che stanno iniziando ad assumere anche manager italiani. Beh, le aziende cinesi sì, stanno iniziando ad assumere manager stranieri, o sono stranieri come me 100%, o sono cinesi che hanno vissuto all'estero, studiato all'estero e tornano qui in Cina per lavorare con aziende cinesi. Quindi esiste questo fenomeno, perché le aziende cinesi stanno sempre più rivolgendo ai mercati esteri, non soltanto per vendere ma anche per iniziare a fare investimenti, e quindi hanno bisogno di managers con esperienza internazionale. Ecco, all'interno di queste fasi, visto che è la terza volta che Focus Economia torna in Cina per raccontare quella che è la presenza italiana in Cina e il rapporto Cina-Italia, che cosa è cambiato in questi anni? Alcuni ci hanno detto paradossalmente la presenza italiana in proporzione è quasi diminuita rispetto a quella francese o tedesca. In effetti è diminuita, è rimasta un po' quella che era, e ha una presenza ridotta rispetto a quella francese, a quella tedesca, a quella inglese, a quella americana, a quella, poi non parliamo di Sud Corea e Giappone. Chiaramente, mentre gli altri paesi hanno anche degli strumenti per essere più presenti qui in Cina, l'Italia non li ha. Parliamo per esempio della grande distribuzione, dove l'Italia è completamente assente. Proprio lei ci raccontava prima che sono presenti oltre 50, per dare l'idea, catene a marchio Auchan in tutta la Cina, che chiaramente poi promuovono i prodotti dell'agroalimentare francese, altrettanto non avviene per quelli italiani. Addirittura, per inciso, c'è stata una contrazione palese del numero, per esempio, di prodotti del settore enogastronomico italiano in Cina. Più che contrazioni continuano ad aumentare, ma continuano ad aumentare in una percentuale inferiore agli altri paesi, proprio perché l'Italia manca della grande distribuzione, mentre sono operativi qui in Cina catene come Carrefour, come Metro, Tesco, Walmart e così via. In Italia manca di questi strumenti, quindi i prodotti italiani aumentano, ma aumentano in percentuale inferiore rispetto a quelli degli altri paesi. Torniamo al suo campo d'attività, che cosa chiede l'imprenditore cinese o l'azienda cinese quando assume un manager straniero, nel caso specifico italiano, e quando va a cercare anche imprese italiane da acquisire? Ci sono stati dei casi recenti anche molto importanti in Italia, anche se ancora limitati. Ma credo che tuttora fra la Cina e gli altri paesi esista un fattore di distanza che non è soltanto distanza geografica, ma anche distanza culturale, come si opera, il modo di lavorare. Quindi un manager straniero credo che debba colmare questo tipo di gap, cioè da diventare un po' un'interfaccia tra quella che è la realtà cinese e quella che è la realtà delle aziende in altri paesi. Ecco, ma visto che noi lamentiamo come paese uno storico basso volume di investimenti stranieri in Italia, paradossalmente quello cinese potrebbe essere un nuovo canale, cioè investimenti cinesi in Italia. Qual è il tipo di selezione, o se c'è un'idea del tipo delle richieste che arriva dal mercato cinese e quindi dalle possibili acquisizioni cinesi verso imprese italiane? Ma credo ci siano due filoni essenzialmente. Uno, quello di avere una base distributiva in Italia per l'Europa, e quindi l'azienda cinese può acquisire un'azienda italiana proprio per stabilire questo tipo di presenza. E l'altra invece è tecnologia, nel senso che l'azienda cinese acquisisce un'azienda italiana per integrare la tecnologia che ha qui in Cina e quindi produrre a dei livelli più alti, tecnologicamente parlando. Quindi per i cinesi diventa molto importante anche la presenza di una catena distributiva in Italia o in Europa, nel momento in cui tu vai a acquisire un'azienda? Sì, perché in effetti diciamo che l'azienda cinese che vuole andare in Europa per produrre e anche per vendere ha bisogno di un canale distributivo, e quindi se acquisisce un'azienda che è già presente in Europa con questo tipo di caratteristiche, chiaramente fa un passo avanti. Ecco, ma visto che lei appunto rappresenta anche un po' la memoria storica, per concludere, della presenza italiana in Cina, dovendo dare un titolo, è migliorata, è rimasta invariata, c'è una maggiore sensibilità, oppure noi che pure eravamo con la Fiat, con altri grandi gruppi, con le banche italiane già presenti in questo paese, abbiamo perso paradossalmente un po' di terreno proprio quando la Cina inizia a diventare l'economia più importante del pianeta? Ma una domanda abbastanza complessa. Diciamo che è migliorata, in assoluto è migliorata, cioè si vende più adesso che 10 anni fa, si produce più adesso che 10 anni fa o 15 anni fa, però forse ecco, non è migliorata come quella degli altri paesi, cioè non c'è stata una espansione sistematica del paese Italia nel continente Cina. Lei parlava appunto della compagnia di bandiera che 20 anni fa l'Italia volava in Asia, volava a Singapore, a Bangkok, in Australia, a Hong Kong, in Tokyo, Manila e così via. Ora mi sembra che voli soltanto a Tokyo, se non vado errando, ma tutti gli altri paesi non sono più toccati, e conosciamo bene quello che è l'importanza del ruolo della compagnia di bandiera, che veicola praticamente merci, passeggeri, turisti, uomini d'affari nel paese da cui ha origine. E allora, da chi come Giovanni Roggero rappresenta anche la memoria storica di chi è in Cina, nel caso specifico a Shanghai da molti anni, a Alice Kosulic, un cognome triestino, una storia anche molto particolare perché conosce la Cina da tantissimi anni, da quando era bambina, e aveva studiato cinese in Italia. Io vorrei capire, visto che lei è stata descritta come la memoria, il punto di riferimento anche per la comunità italiana a Shanghai, intanto se si ritrova in questo schema in cui dello sviluppo della presenza italiana in Cina, prima solo per acquisire, poi anche per produrre in Cina attraverso joint venture, infine anche per stabilire degli impianti produttivi per produrre per il mercato cinese, e poi anche quali sono i limiti che lei vede nell'approccio italiano, visto che lei, dimenticavo di dirlo, è proprietaria di una società in Cina che produce articoli da regalo e arredo casa, diciamo. Ecco, allora, si ritrova in questa ricostruzione molto sommaria, molto anche, se vogliamo, riduttiva della presenza italiana in Cina e come si è evoluta in questi ultimi anni? Ma io sono in Cina ormai dal 10 anni circa, sono venuta con una mia azienda che produce in Cina ed esporta in Italia e in Europa. Se mi chiede se mi sento più italiano o cinese in questo momento, sinceramente mi sento più cinese, non... rinnego ovviamente nella mia nazionalità o che altro, sono molto legata all'Italia, però in questo momento non mi sento parte della comunità, non perché non lo sono come nazionalità, ma perché non seguo un po' il trend delle aziende italiane in Cina. Quindi io devo essere per necessità, per la mia azienda, molto più cinese, nel senso che lavoro con delle fabbriche molto povere, lavoro col più basso livello di fabbrica che ci sia in Cina, quindi necessito parlare cinese, non parlano nessun tipo di inglese o altro, e quindi sono molto cinese perché vivo come un'azienda cinese fondamentalmente, se non per ovviamente finanziamenti e quant'altro arrivano dall'Italia. Ecco un dettaglio, ma voi producete per il mercato cinese o per il mercato europeo? Mercato europeo, mercato italiano. Quindi producete articoli da regalo che poi vengono esportati in Italia. Tra l'altro, visto che citava queste fabbriche di un livello più basso della produzione, le condizioni lavorative in queste fabbriche come sono? Sono pessime, nel senso che adesso poi nell'ultimo anno, negli ultimi 6 mesi direi, sono subentrati ulteriori gravissimi problemi di mancanza di personale, perché poca gente pensa, in Cina si pensa sempre che ci siano un sacco di operai a disposizione e che la manodopera costi poco, invece negli ultimi 6 mesi con questa nuova politica di Wen Jiabao di riportare, diciamo, gli operai nelle loro città natale, ha creato un enorme scompenso a livello di forza lavoro nelle fabbriche, quindi questo complicando enormemente anche la produttività delle fabbriche già, anche nelle più grandi città hanno proprio una scarsa manodopera, e quindi questo allunga enormemente i tempi di consegna, specialmente per quello che per me è il più grosso lavoro, che è il Natale 2010, e che non sarà solo un problema mio, ma sicuramente di tutta l'Europa e di tutto il mondo. Per cui interessante sapere che in realtà la politica di riportare poi gli operai vicino ai luoghi da dove provengono porta degli scompensi anche nella manodopera, che chiaramente è un problema opposto a quello che viviamo in Europa, dove i tassi di disoccupazione sono invece in continua crescita. Le chiedo, visto che lei ha acquisito una mentalità cinese, perché deve lavorare con fornitori cinesi, l'errore più comune che viene fatto dagli italiani quando sbarcano in Cina, noi è la terza volta che, ripeto, torniamo a occuparci di Cina, degli italiani in Cina, c'è ancora questo problema di venire in Cina cercando di imporre quello che è il modello italiano senza voler ascoltare e capire quello che invece è il modello culturale, quindi anche produttivo cinese? Enormemente, nel senso che secondo me non mi stancherò mai di dirlo. Il problema della Cina non è il non saper parlare cinese, ma il non saper cogliere la mentalità di queste persone e capire che prima è necessario capire come lavorano, capire come parlano, come si relazionano con noi, e quindi si tende sempre a imporre, cercare di imporre il nostro modello senza risultato. Nel senso, io ho avuto diverse occasioni di persone che parlano anche cinese ma ancora con la mentalità italiana, e quindi che non hanno poi avuto successo nel lungo termine. Ecco, ma nel concreto che cosa vuol dire? Non, perché ogni cultura è diversa, ma perché dovrebbe essere più un problema non acquisire la mentalità cinese qui piuttosto che non acquisire la mentalità di altri paesi in cui si va a produrre, vuoi per il mercato interno, vuoi per il mercato italiano? Una delle principali cose che secondo me non si capisce in qualsiasi anche azione giornaliera, cioè il cinese pensa di essere, gli è stato insegnato che sono i primi al mondo, come lo stesso carattere cinese dice sono al centro del mondo, vuol dire Cina, vuol dire io sono al centro del mondo. Oltre alla Cina per anni gli è stato detto che non c'era nient'altro e sono rimasti di questa mentalità. Se lei va su una metropolitana cercheranno di essere i primi in qualsiasi cosa fanno, non fanno mai la fila come noi del resto, però hanno sempre questa corsa per essere primi, e se tu provi a dire che non sono loro i primi, ma tu con il tuo anche know-how, che sicuramente è diverso da loro, sicuramente li porta, prima deve venire il rispetto, cioè prima ci sono loro, tu sei nel loro paese, lavori nel loro paese, non sei in Italia, sei in Cina. Quindi qualsiasi cosa tu fai devi farla nel rispetto del cinese, sempre e comunque. Quindi non hanno nessuna soggezione nei confronti del mondo occidentale e nel caso specifico europeo che noi rappresentiamo, quanto a competenze, know-how e capacità produttiva? Sì, no, sicuramente sono consci che ovviamente il cinese farà sempre tutto anche per soldi, nel senso che se lui sa che ha un guadagno ovviamente dirà va bene, mi serve questo know-how e lo voglio, però lo vuole a determinate condizioni, cioè come in tante joint venture è successo, cioè tu devi prima accettare le mie condizioni e io poi ti lascio entrare, in questo senso. Con lei che oltre 10 anni appunto che è qui a Shanghai e in Cina, si è fatto l'idea del perché molte joint venture nel passato non abbiano funzionato tra partner italiano e partner cinese? Gli italiani che intervistammo la volta scorsa, 3 anni fa, quando eravamo qui, raccontavano soprattutto di un non rispetto degli accordi, una concezione della legalità, del diritto, dell'accordo diversa da quella italiana, l'accordo può essere comunque violato, il rischio di essere copiati, insomma un problema anche di riconoscere quello che per noi invece è un dato acquisito, cioè l'accordo si fa rispettare, se no si va per vie legali. Diciamo. Un contratto in Cina non ha alcun valore, io lo dico perché firmo contratti quotidianamente e se il cinese il giorno dopo trova che il renminbi si è rivalutato oppure le tasse sono aumentate o c'è stato qualsiasi tipo di variazione, quel contratto si annulla. Cioè non hanno lo stesso concetto del contratto che abbiamo noi. Per quanto riguarda la joint venture sicuramente c'è da dire che sono state misinterpretate e sottovalutate determinati aspetti, come che il cinese magari misinterpretava quello che diceva lo straniero, sicuramente vuole fare così, però io vado e spendo soldi anche per la mia famiglia usando le stesse risorse, e questo è stato un po' secondo me da una parte italiana un po' non essere abbastanza informati e non avere sufficienti informazioni per poter aver successo. C'è sicuramente la parte anche linguistica e di non conoscenza a sufficienza della mentalità, però è anche vero che forse mancanza di informazione, sì. Ecco, su questo si sta modificando qualcosa, perché Orgera diceva poco fa, sì, la presenza italiana resta, è anche incrementata in termini assoluti, in termini relativi no, perché diciamo la curva di crescita della presenza tedesca e francese è stata superiore a quella della presenza italiana, e su questo abbiamo molti grafici, molti schemi che ci hanno messo in evidenza. Lei ha notato un miglioramento nella capacità italiana quanto a imprese di relazionarsi, di approcciare la Cina, oppure siamo sempre a quel problema culturale che lei notava 10 anni fa? Ma io le dico, come le ripeto, non sono molto all'interno della comunità, quindi non voglio dare dati che non sono precisi. Non vedo sinceramente quel cambiamento significativo. Vedo sinceramente, come diceva giustamente il collega Diego, un aumento di ragazzi, giovani italiani che vogliono, diciamo tra virgolette, che scappano da un'Italia senza lavoro alla ricerca di nuove esperienze qua. Quello sicuramente sì, c'è stato un forte aumento e ci si augura che vada a buon fine. Da quel punto di vista lì sicuramente sì. E la conoscenza dell'Italia da parte cinese è migliorata oppure restiamo in un universo assolutamente sconosciuto? Cioè non si riesce ad andare oltre quello che è un'immagine molto stereotipata del nostro paese, complice anche l'assenza appunto di una compagnia di bandiera forte sul territorio, la rete distributiva di prodotti italiani. A noi sarà per la passione che abbiamo per il vino, ha fatto molta impressione notare come la presenza del vino italiano sia calata in questi anni in termini relativi e non aumentata. Ma sinceramente secondo me invece c'è un forte aumento dell'interesse cinese nei confronti dell'Italia, ma non solamente grazie alla presenza italiana qua, nel senso che il cinese ha sempre avuto questo sfrenato amore anche per la musica, per l'arte, non necessariamente un prodotto come potrebbe essere un abito o un paio di scarpe, e quindi automaticamente comunque è aumentata sia perché loro hanno avuto anche più possibilità di viaggiare, è aumentato, insomma, migliorate le condizioni di vita, la gente ha avuto anche più possibilità di, e anche secondo me per vie traverse, più accessi via internet a diversi, insomma, siti che comunque presentano il nostro paese. Sicuramente in aumento, ma non solo grazie alla presenza italiana, quindi per loro interesse hanno sempre avuto questo legame col nostro paese. Con rispetto agli altri paesi è migliorato, ripeto, sappiamo che lì c'è, nel caso specifico Shanghai lavora bene per chi, grazie a chi è il responsabile del lice, ma insomma la capacità del paese di fare sistema è un po' migliorata rispetto a 5-6 anni fa, che fu la prima volta che noi venimmo col programma per raccontare un pezzetto di Cina, oppure l'italiano comunque sono oltre 1600 le imprese, se non ricordo male, a Shanghai, 2000 in tutta la Cina e 1600 solo a Shanghai iscritte, però si muove sempre in maniera autonoma, senza dietro il paese. Secondo me è migliorata, indubbiamente, però in Cina, come del resto, non so se funziona così in altri paesi, sono proprio le singole persone di riferimento che fanno un'enorme differenza. Come lei ha citato l'ICE, è giusto dire che la persona, il direttore dell'ICE, effettivamente è stato ha contribuito per fare un grande passo avanti in questo senso, e devo dire che sicuramente è migliorata, sì. Una domanda che è anche una curiosità, lei vive in Cina con i suoi figli, i costi, perché questa è una cosa che ogni tanto riusciamo a toccare, ma i manager italiani pensano che venire in Cina sia tutto a costo zero, poi sappiamo invece, l'abbiamo già raccontato, che una segretaria che parla inglese costa sugli 800 dollari, 1000 dollari al mese, un ingegnere sui 1500-1800, ci sono dei costi molto alti per le scuole e per la sanità, cioè i costi di un manager che dovesse essere mandato in Cina e portare la famiglia, sono costi non indifferenti. Sono costi non indifferenti, però le giro la domanda, cioè se un manager che vuole venire in Cina, italiano, vuole vivere come vive in Italia, sono altissimi. L'unico costo altissimo che io ritrovo qua, che non mi troverei a casa, sono la sanità, che è privata, e le scuole. Però se mi adeguo a fare la spesa in posti normali, come tutte le persone, come potrebbe essere un Carrefour o un qualsiasi supermercato, ho un livello di costo. Se devo andare al City Shopping o a comprare il latte importato che mi costa 5 euro al litro, è ovvio che i costi cambiano. Quindi la differenza sta in che fascia la tua famiglia, tu vuoi che la tua famiglia viva, ecco, e la casa ovviamente. Ma per curiosità, i costi dell'istruzione e della sanità, come viaggio? Sono intorno ai 40.000, io ho due figli, e 45.000 euro l'anno. In tutto, spero. Per i due bambini, sì. Simone, come senti, le cose stanno cambiando in questi ultimi anni, stanno cambiando dal punto di vista della presenza italiana, tutti gli intervistati che avete sentito hanno confermato che ormai le aziende italiane producono sempre di più per il mercato locale e sempre meno per l'export diretto all'Italia. La stagione del joint venture, ce l'hanno confermato i nostri ospiti oggi, è definitivamente o quasi al tramonto, restano alcuni nodi strutturali e di criticità, l'aiuto, il supporto che le nostre imprese ricevono dal sistema paese e poi l'assenza, questo sarà un problema che analizzeremo anche nei prossimi giorni, di reti lunghe rispetto a altri paesi, ma quello sappiamo che è il problema della nostra struttura di impresa, che godono di grandi, grandissimi gruppi industriali, penso ai francesi e ai tedeschi, e che fanno da apripista e quindi da locomotiva per quello che poi è tutto il mondo delle piccole e medie imprese. Domani torneremo a raccontarvi altre storie di imprenditori italiani qui a Shanghai, poi mercoledì sarà la volta invece del convegno, la presenza della Presidente di Confindustria Marcegaglia, dei ministri e dei politici italiani, del numero uno di Banca Intesa San Paolo Corrado Passera. All'Expo di Shanghai sarà anche l'occasione per parlare dell'Expo, dell'immagine che l'Italia rappresenta e dà di se stessa a questo Expo. Ti ripasso la linea, per ora è tutto da Shanghai. Le 17:51 minuti e 20 secondi, una notizia appena battuta dalle agenzie: il presidente dell'ABI Corrado Faisola ritira la disponibilità a ricandidarsi per un ulteriore mandato al vertice dell'associazione bancaria. Dice: voglio dare il mio contributo al raggiungimento della più larga convergenza, ritengo quindi mio dovere istituzionale non confermare la mia iniziale disponibilità. È il momento della borsa. Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, oggi siamo privi di Wall Street e Londra, chiuse entrambe per il Memorial Day, come abbiamo detto in apertura. Chiudono abbastanza bene le piazze finanziarie europee. Bene, ma contrastate. Parigi ad esempio ha registrato un lieve calo dello 0,21%, mentre Francoforte ha guadagnato lo 0,31%. Anche Piazza Affari ha messo a punto un progresso dello 0,35% sia per il FTSE All Share che per il FTSE MIB. Allora Eleonora, ci sono temi in particolare che hanno dominato la giornata? Innanzitutto sono rimbalzati i bancari, sono appunto i titoli che nel momento in cui la borsa va giù sono i primi a perdere punti, a perdere colpi, e sono i primi a rialzare la testa quando la borsa tende a rimbalzare. Tra l'altro si sono messe in evidenza soprattutto le Unicredit, più 1,58%, titoli che avevano perso molti punti nelle sedute di ribasso, e poi sono state in evidenza le Intesa San Paolo, più 1,16%, anche sull'onda della notizia riferita questa mattina dal giornale francese La Tribune, secondo la quale l'istituto guidato da Corrado Passera sarebbe in corsa per rilevare un istituto polacco, in corsa insieme ad alcune banche francesi, BNP Paribas e Société Générale, anche alcune banche spagnole, Santander e BBVA. Sì, in effetti vedo bene tutte quante, compreso anche il comparto del risparmio gestito. Azimut guadagna l'1,91%, sempre sulle banche, il Monte dei Paschi un più 1,17%, quindi insomma complessivamente positivi i bancari. Bene ha fatto il gruppo Fiat in borsa oggi, c'è un motivo particolare? Ci sono una serie di motivi. Innanzitutto è andato bene il comparto auto a livello di tutta Europa, più 1,23% il sottoindice Stock 600 del settore auto. Poi c'è l'attesa per i dati sulle immatricolazioni di maggio, che saranno rese note domani a borsa chiusa. Quindi poi c'è l'attesa anche per conoscere le vicende legate allo stabilimento di Pomigliano. Proprio oggi, all'uscita dall'Assemblea di Banca Italia, il presidente John Elkann ha detto che occorrerà decidere in fretta, e appunto ha detto inoltre di auspicare ovviamente un esito positivo. Sono tutti fattori appunto che hanno riacceso comunque i riflettori sulle Fiat e anche sull'Exor, più 3,90%. Sì, è il titolo migliore sul FTSE MIB oggi, Exor con un più 3,90%, mentre Fiat chiude con un rialzo dell'1,77%. Ecco, subito sotto Exor c'è Finmeccanica, un guadagno del 2,30%, aveva perso parecchio sulla scorta delle notizie arrivate sull'indagine per presunti fondi neri, ha recuperato qualcosa oggi, Eleonora? Sì, esatto, si è trattato di un rimbalzo, peraltro numerosi esperti dicono che la reazione di venerdì scorso sulla scorta appunto delle notizie emerse dalla Procura di Roma erano state eccessive. Del resto anche la società ha preso distanza, e quindi oggi gli investitori sono tornati ad acquistare le azioni dell'azienda romana, che così hanno segnato questo progresso di oltre il 2%. Telecom, parecchi rialzi nei giorni scorsi, oggi siamo giù, è il titolo peggiore sul FTSE MIB, un meno 1,86%. Esatto, in questo caso si può parlare di prese di beneficio dopo la corsa della scorsa settimana, ma si tratta esclusivamente di realizzi, non sono uscite notizie o report particolari che abbiano influito sull'andamento del titolo. Invece, sempre traendo spunto dall'andamento della scorsa settimana, vale la pena notare che continuano a correre le Pirelli. In una settimana hanno realizzato un guadagno complessivo del 9%, anche oggi hanno messo a punto un progresso del 2%, ovviamente i titoli beneficiano sia dell'andamento positivo del settore auto, sia dell'attesa per la riorganizzazione del gruppo. Ricordiamo che verranno separate dall'azienda le attività che operano nell'immobiliare, ma soprattutto c'è l'attesa nei prossimi giorni per l'annuncio di chi sarà il fornitore della Formula 1. Pirelli è in pole position, già sabato si attendeva appunto il verdetto che annunciava il vincitore, purtroppo è stato rimandato, ma comunque fonti vicine alle trattative continuano a sostenere che Pirelli sia in pole position per sostituire Bridgestone nella prossima. Bene, termine pole position quanto mai azzeccato. Eleonora, ti interrompo, ci ritroviamo tra un attimo, subito dopo il giornale radio, che un altro paio di domande, in particolare Actelios ed ST Microelectronics. A tra poco. Le 18:09, bentornati a Focus Economia da Simone Spezia. Avevamo lasciato in sospeso con la nostra Eleonora Micheli di Radio Coro Il Sole 24 Ore un paio di titoli, per l'esattezza ST Microelectronics e Actelios. Eleonora. Sì, le ST oggi si sono messe in evidenza, sono salite dell'1,73% a 6,45 euro, beneficiando del fatto che il giorno in cui la società ha staccato il primo acconto sul dividendo. Per quanto riguarda Actelios invece ha accusato un calo di oltre il 7%, venerdì scorso le azioni erano invece rimaste sospese dalle contrattazioni su decisione di Borsa Italiana, visto che la società ha annunciato un'operazione di riassetto di tutto il gruppo. Riassetto che prevede il conferimento dell'attività eolica da parte del gruppo Falck in Actelios. E poi la società promuoverà un aumento di capitale da 130 milioni a sostegno dei piani di sviluppo dell'azienda. Intanto anche la famiglia Falck salirà al 75% del capitale. D'altra parte il mercato si è mostrato molto critico nei confronti di tale operazione, appunto ha fatto scivolare le quotazioni dell'azienda di oltre il 7%. Ci sono dubbi soprattutto su quelli su appunto gli effetti per gli azionisti di minoranza. Grazie dunque anche per oggi ai colleghi di Radio Coro Il Sole 24 Ore, nella fattispecie alla nostra Eleonora Micheli. Buonasera Eleonora. Buonasera a tutti. E siamo adesso alle considerazioni finali di fine d'anno del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Questa mattina appunto l'assemblea annuale, una prima parte della relazione dedicata agli scenari economici e finanziari internazionali, con particolare attenzione agli ultimi sviluppi. Naturalmente Draghi ha parlato sia da governatore della Banca d'Italia che da presidente del Financial Stability Board, che è un'importante istituzione economica internazionale che è stata investita in quest'ultimo periodo proprio di maggiori responsabilità. Ebbene, ha dato un giudizio Draghi abbastanza sferzante su come si stanno comportando i mercati in questo periodo. Un giudizio peraltro dato a braccio, cioè non contenuto all'interno delle 19 cartelle della relazione consegnate alle autorità e ai giornalisti. Dunque partiamo proprio da qua, visto che abbiamo appena finito di parlare di borsa, da queste parole di Draghi. Al sollievo per la catastrofe evitata è subentrata nei mercati finanziari internazionali l'ansia improvvisa per la sostenibilità di debiti sovrani crescenti. Le vendite colpiscono titoli di Stato che hanno ampi deficit di bilancio o alti livelli di debito pubblico, soprattutto quelli di paesi dove queste due caratteristiche si combinano con una bassa crescita economica. Quanto più questa è debole, tanto più esigente, pressante, e se c'è una cosa in cui i mercati sono veramente efficienti è a spargere l'ansietà in giro per il mondo, Quanto più esigente, cioè pressante, è la richiesta degli investitori istituzionali di un rapido rientro dagli squilibri nei conti pubblici. Per questi paesi non c'è alternativa al fissare rapidamente un itinerario di riequilibrio di bilancio con una ricomposizione della spesa corrente e con riforme strutturali che favoriscano l'innalzamento del potenziale produttivo e la competitività. Beh, come si diceva, giudizio decisamente sferzante, insomma, dato da uno che tra le altre cose è stato anche direttore esecutivo della Banca Mondiale, partner di Goldman Sachs, insomma, è un giudizio, si diceva appunto, abbastanza duro. E poi naturalmente ha parlato, parlando di squilibri finanziari, di squilibri di bilancio, ha parlato di euro. L'euro vive con tutti i suoi membri, ha detto, bisogna rafforzare l'unione, e dall'euro, ha detto ancora Draghi, non si torna indietro. L'euro vive con tutti i suoi membri, grandi e piccoli, forti e deboli. Dall'euro non si torna indietro. Se è stato illusorio pensare che la moneta da sola potesse fare l'Europa, ricordiamo gli appelli accorati del presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, appelli a superare la zoppia, quella che lui chiamava zoppia dell'euro. L'unica via oggi è quella di rafforzare la costruzione europea nella politica, con un governo dell'Unione più attivo, nella disciplina dei bilanci pubblici e nel progresso delle riforme strutturali, con un nuovo patto di stabilità e crescita al tempo stesso più vincolante e più esteso. E dunque questa la posizione sull'euro. Sentiremo tra un attimo anche che cosa ha detto Draghi in merito al patto di stabilità, insomma, si è detto appunto della situazione dell'euro, e però secondo Draghi, così come secondo molte istituzioni europee e anche molti governi europei, questo patto di stabilità va rafforzato e vanno previste sanzioni per i paesi che sforano. Adesso la viabilità e poi ascoltiamo anche questa parte. Si diceva della posizione del governatore della Banca d'Italia in merito al patto di stabilità, al patto europeo. Ebbene, ascoltiamola. Gli eventi recenti ripropongono con maggior forza l'antico problema di un governo economico dell'Europa. È urgente un rafforzamento del patto di stabilità e crescita. L'impegno a raggiungere un saldo di bilancio strutturale in pareggio o in avanzo va reso cogente, introducendo sanzioni, anche politiche, in caso di inadempienza. Va assicurata l'integrità delle informazioni statistiche, in particolare quelle di finanza pubblica. Vanno introdotti, anche per le politiche strutturali, vincoli e impegni cogenti. Le divergenze che osserviamo da tempo nei tassi di crescita effettivi e potenziali, la gravità degli squilibri negli scambi di merci e servizi intraarea, segnalano inadeguatezze e incoerenze delle politiche nazionali. Alcuni obiettivi dell'azione pubblica volta a rafforzare lo sviluppo economico di lungo periodo, attinenti ad esempio alla partecipazione al mercato del lavoro di giovani e anziani e alla concorrenza nei mercati dei servizi, dovrebbero essere corredati da controlli e in alcuni casi da sanzioni. E adesso veniamo al cuore dei problemi italiani e delle questioni italiane, a partire da un giudizio naturalmente del governatore della Banca d'Italia sulla manovra appena approvata dal governo e, come vi abbiamo detto in apertura di trasmissione, firmata in giornata dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Tra l'altro si stanno diffondendo in questi minuti alcuni dettagli sulla manovra, tra cui il fatto che è saltata la norma che prevede la soppressione delle microprovincie. Il testo finale conferma che le norme per chiudere e accorpare le amministrazioni con meno di 220.000 abitanti sono state tolte dalla manovra. Queste alcune delle indicazioni. I fondi FAS, si legge nel testo finale, rimangono al Ministero dello Sviluppo, e questo era uno dei dubbi. E poi salta, come si conferma, la lista degli enti culturali storici per i quali era previsto un ridimensionamento dei finanziamenti, ma i fondi vengono ridotti del 50% rispetto al 2009. Sicuramente ci sarà discussione anche su questo, ma sentiamo cosa ha detto il governatore della Banca d'Italia sulla manovra. Il governo italiano ha ribadito l'obiettivo di ridurre il deficit al di sotto della soglia del 3% del PIL nel 2012. Ha confermato l'impegno al raggiungimento del pareggio di bilancio su un orizzonte temporale più esteso. Ha anticipato la definizione delle misure correttive per il biennio 2011-2012. La manovra mira a portare la crescita della spesa primaria corrente al di sotto dell'1% annuo nel biennio 2011-2012, determinando una riduzione della sua incidenza sul PIL di oltre 2 punti. È necessario un attento scrutinio degli effetti della manovra per garantire il conseguimento degli obiettivi. E poi ha detto ancora Draghi: vanno bene i tagli, va bene la gestione del turnover nel pubblico impiego, può andare bene anche il blocco dei contratti, però la sostanza è che bisogna lavorare più intensamente perché si riducano i livelli di governo e degli sprechi, ossia bisogna farlo in maniera più strutturale. Ascoltiamo. La gestione del turnover nel pubblico impiego e i tagli alle spese discrezionali dei ministeri recentemente decisi dal governo devono fornire l'occasione per ripensare il perimetro e l'articolazione delle amministrazioni, per razionalizzare l'allocazione delle risorse riducendo sprechi e duplicazioni tra enti e livelli di governo. Occorre un disegno esteso all'intero comparto pubblico che accompagni le iniziative già avviate per aumentare la produttività della pubblica amministrazione attraverso la valutazione dell'operato dei dirigenti e dei risultati delle strutture. Il federalismo fiscale deve aumentare l'efficienza dell'uso delle risorse. Solo un vincolo di bilancio forte, accompagnato dalla necessaria autonomia impositiva, può rendere trasparente il costo fiscale di ogni decisione e responsabilizzare i centri di spesa. La definizione dei costi e dei fabbisogni standard a cui saranno commisurati con la necessaria componente di solidarietà, perché senza solidarietà non si fanno progressi su questo fronte. I trasferimenti statali la definizione dei costi dovrà far riferimento alle migliori pratiche. Ciascun ente dovrà mantenere il proprio bilancio in pareggio, al netto degli investimenti, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione. E poi c'è il tema dell'evasione fiscale. Il governatore della Banca d'Italia ha citato dei dati molto interessanti elaborati dallo stesso istituto di Via Nazionale, da Palazzo Koch. Nel frattempo le agenzie diffondono che la stessa Banca d'Italia sarà coinvolta nel programma di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 e questo fa sempre parte della manovra. Comunque, ritorniamo al tema dell'evasione fiscale, così Draghi. L'evasione fiscale è un freno alla crescita, perché richiede tasse più elevate per chi le paga, riduce le risorse per le politiche sociali, ostacola gli interventi a favore dei cittadini con redditi modesti. Ora, macelleria sociale è un'espressione rozza ma efficace, e io credo che siano gli evasori soprattutto i primi responsabili di quella che viene definita macelleria sociale. Confrontando i dati della contabilità nazionale con le dichiarazioni dei contribuenti, si può valutare che tra il 2005 e il 2008 il 30% della base imponibile dell'IVA sia stato evaso. In termini di gettito sono oltre 30 miliardi l'anno, 2 punti di PIL. Quindi se l'IVA fosse stata pagata, il nostro rapporto debito-PIL sarebbe oggi tra i più bassi dell'Unione Europea. Il governo ha introdotto misure di contrasto all'evasione fiscale. L'obiettivo immediato è il contenimento del disavanzo, ma in una prospettiva di medio termine la riduzione dell'evasione deve essere una leva di sviluppo, deve consentire quella delle aliquote. Il nesso fra le due azioni va reso visibile ai contribuenti. Beh, decisamente dati impressionanti, perché se sì, avete sentito bene, il governatore della Banca d'Italia non ha detto avremmo il deficit più basso in rapporto al PIL rispetto a molti altri paesi europei, a tutti gli altri paesi europei, ma avremmo uno tra i più bassi in termini di debito, di rapporto tra debito e prodotto interno lordo, che come sapete è il nostro grande problema, e quello su cui appunto bisogna lavorare per la riduzione. E poi è tornato a parlare, così come l'anno scorso, di età pensionabile, di necessità di completare la riforma delle pensioni. Da tempo vanno ampliandosi in Italia le differenze di condizione lavorativa tra le nuove generazioni e quelle che le hanno precedute a sfavore delle prime. I salari di ingresso in termini reali ristagnano da 15 anni. Una ripresa lenta accresce la probabilità di una disoccupazione persistente. Questa condizione, specie se vissuta nelle fasi iniziali della carriera lavorativa, tende ad associarsi a retribuzioni successive permanentemente più basse. La riforma del mercato del lavoro va completata, superando le segmentazioni e stimolando la partecipazione. I giovani non possono da soli far fronte agli oneri crescenti di una popolazione che invecchia, né sarà sufficiente l'apporto dei lavoratori stranieri. Nell'ultimo trentennio, a fronte di un aumento della speranza di vita dei sessantenni italiani di oltre 5 anni, si stima che l'età media effettiva di pensionamento nel settore privato sia salita di circa 2 anni attorno a 61. Occorre prolungare la vita lavorativa anche per garantire un tenore di vita adeguato agli anziani di domani. I paesi europei ad alto tasso di occupazione nella fascia 55-64 anni sono anche quelli con la maggiore occupazione giovanile. Nel 2009 il governo ha compiuto un passo importante collegando in via automatica dal 2015 l'età minima di pensionamento alla variazione della speranza di vita. E questo dunque Draghi sulle pensioni e poi più in generale su come l'Italia può affrontare questa crisi con un paragone, quello con il 1992, che secondo il governatore della Banca d'Italia è illuminante. Nel 92 affrontammo una crisi di bilancio ben più seria di quella che hanno oggi davanti alcuni paesi europei. Il governo dell'epoca presentò un piano di rientro che, condiviso dal paese, sia pure in modo travagliato, fu creduto dai mercati senza alcun aiuto da istituzioni internazionali o da altri paesi. Fu una lotta lunga. In regime di cambi flessibili, dopo 3 anni, gli spread superavano ancora i 650 punti base, ma fu vinta perché i governi che seguirono mantennero la disciplina di bilancio. La stabilità era entrata nella cultura del Paese. Anche la sfida di oggi, coniugare la disciplina di bilancio con il ritorno alla crescita, si combatte facendo appello agli stessi valori che ci hanno permesso insieme di vincere le sfide del passato. Capacità di fare, equità, desiderio di sapere, solidarietà. Consapevoli delle debolezze da superare, delle forze ragguardevoli che abbiamo, affrontiamola. E poi il tema che è più propriamente della Banca d'Italia, ossia appunto le banche, chiede Draghi alle banche che proseguono il rafforzamento patrimoniale, poi un appello ad andare oltre la mera lettura dei documenti contabili nella valutazione dei clienti, imprese in particolare. Ma le grandi banche si giudicano anche da come organizzano l'attività sul territorio. Mantenere, valorizzare il rapporto con l'economia locale significa utilizzare nella valutazione del cliente conoscenze accumulate nel corso di anni, ben più accurate di quelle desumibili da modelli quantitativi. Significa saper discernere l'impresa meritevole anche quando i dati non sono a suo favore. Significa saper fare il banchiere. La risposta delle grandi banche alle esigenze locali, coerente con la sana e prudente gestione, deve però conciliarsi con strategie e visioni globali. Le reazioni. In una nota il presidente del Consiglio Berlusconi dice che è riconosciuta la bontà dell'azione di governo, così la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. La difficoltà del momento richiede anche posizioni, diciamo, decise, però mi pare che i temi del coniugare il taglio della spesa pubblica con la crescita e la competitività sono il tema fondamentale, la guerra all'evasione fiscale è da condividere e il tema dei giovani che sono poi comunque coloro che hanno più sofferto di questa crisi, sono cose che noi condividiamo. Quindi credo che in questo momento il Paese si deve tutto lavorare su questo aspetto di tagli alla spesa pubblica che devono diventare, per quanto come dire dolorosi, un fatto condiviso e ritornare però a ragionare anche di crescita, perché se cresciamo poco non ci sono conti pubblici che tengano. Ed è tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24. La passione si sente.